Sono le ore 9 e 11 minuti di domenica 28 aprile 2024. E raccolgo il messaggio di Claudio Ferilli, che dopo aver ascoltato la registrazione di qualche giorno fa, che metteva un po' a confronto l'Italia dei mondiali dell'82 con l'Italia dei mondiali del 2006, le due vittorie, quella eroica dell'82 e quella picaresca, direi, dell'86, mi segnala un romanzo di cui non sapevo nulla, stavo per dire non sapevo molto, no? Come si fa con un certo pudore, ma la verità è che non sapevo nulla, scritto da Giuseppe Genna, proprio nel 2006, e che parla del mondiale, diciamo, dei primi anni 80, compreso il mondiale dell'82, e che si intitola Dies Irae, il grande complotto televisivo. Già il titolo, insomma, mi incuriosisce molto. Non l'ho letto, ho letto una recensione, lui mi ha girato il link di una recensione, lo leggerò perché i temi sono interessanti, soprattutto per le persone che si occupano di media e soprattutto le persone della mia generazione. E su questo io credo di poter dire anzitutto, e anzi così ho risposto nel WhatsApp a Claudio Ferilli, che forse un po' la mia generazione è ossessionata da quello che è successo negli anni 70 e 80 per tutta una serie di ragioni. Beh, io adesso sono proprio in piena tempesta ormonale anni 70-80, nel senso che intanto tutto quello che è accaduto in quegli anni è straordinariamente documentato su internet, si trova veramente tutto, sia nell'audiovisivo, sia nelle testimonianze solo audio, e poi un'enorme quantità di testi. Io sto scoprendo un'incredibile quantità di siti, per esempio, che raccolgono gli articoli di giornale, ma anche le fanzine, la controcultura, quello che oggi chiameremmo complottismo e che ai tempi si parlava semplicemente, veniva definita controinformazione, che insomma, tra l'altro, non bisogna nemmeno fare un monumento alla controinformazione, perché anzi subisce molto spesso il frame principale e semplicemente te lo rovescia. Comunque, ecco, una cosa che trovo fantastica è che in quel genere di ossessioni, ecco, per tutto quel periodo, le stragi, la violenza politica, gli anni di piombo, i complotti, la P2, e l'emergere poi di un medium così potente come la televisione, proprio in quegli anni, anche un cambiamento dei linguaggi. Cioè, tutte queste cose qua, io temo che siano anche un po' il frutto di una forma di dilatazione del tempo. Cioè, secondo me a noi cinquantenni sembra che gli anni 70 e 80 siano durati un'eternità, che sia successo in quegli anni tutto quello che conta, e poi dopo, improvvisamente, diventa tutto superficiale, inutile, velleitario, no? Mentre era allora che si prendevano i rischi, veramente, no? Invece oggi ci stiamo tutti un po' aggiustando. Questo è l'errore, naturalmente, che facciamo, perché le giovani generazioni di oggi vedono i grandi temi, l'emarginazione, le disuguaglianze, i danni, i disastri di una certa deriva della globalizzazione, non della globalizzazione in quanto tale. E naturalmente, sullo sfondo, ma neanche tanto, il cambiamento climatico e quindi il sentirsi una generazione perduta. Ecco, tutte queste cose che sono importantissime, io temo che per gran parte della, diciamo, classe dirigente, o più semplicemente della classe anagrafica che rappresento, passa in secondo piano. Perché? Perché l'unico momento in cui si è fatto qualcosa che davvero conta in Italia sono gli anni 70 e 80. Quindi vorrei fare anzitutto una grossa autocritica e derubricare anche tutte queste mie ossessioni appunto a patologie, perché di questo si tratta. Però non credo che si tratti di passatismo. Ecco, io non non accetto l'accusa di passatismo, perché credo che dietro ci sia l'alibi, diciamo una scusa come un'altra, per voler rimanere schiacciati in una sorta di eterno presente. E tra l'altro in questo modo, per esempio, come fa anche l'articolo di Stefano Chiodi sulla Biennale di Venezia, di cui parlavo qualche episodio fa, in questo modo quello che succede è che si accusi di passatismo chiunque voglia usare un archivio, chiunque provi a contestualizzare storicamente un racconto, una narrazione. E questo secondo me non ci aiuta, non ci aiuta affatto. Comunque, superato il problema del passatismo, io credo che gli anni 70, gli anni 80 siano comunque straordinariamente ricchi. Su questo credo che non ci siano dubbi, di miti, di immagini, di cose che ci rimangono dentro. E pazienza se accade anche per via di una forma di relativismo anagrafico. Pazienza se sembra più grande. Probabilmente i tempi di oggi sembreranno più grandi a quelli che tra 30 anni avranno 50 anni. Credo che sia abbastanza inesorabile. Però soprattutto di una cosa sono sicuro. Se proviamo a leggere, per esempio, le cronologie degli anni 70, no? Come si può fare su Wikipedia, no? Ci sono delle bellissime pagine con tutti i fatti che poi possono essere ulteriormente approfonditi con ulteriori pagine di Wikipedia. Beh, basta fare click su una parola, per esempio Tupamaros, per scoprire cose che prima si intuivamo a livello abbastanza istintivo, cioè il collegamento tra un certo tipo di lotta armata sudamericana e la lotta armata organizzata qui in Italia. E cerchiamo anche di riusciamo finalmente a calarci in una sorta di brodo culturale senza che sia nelle mani di qualcuno che prova ad organizzartelo all'interno di una tesi, di un'antitesi, di una sintesi. Ecco, questo è uno dei grossi vantaggi di Wikipedia. Poi naturalmente in quelle pagine trovi anche ogni tanto l'intervento del burlone che si diverte a cambiare le parole finché qualcuno non se ne accorge ed è costretto a correggerle, come è capitato di fare a me proprio l'altra sera. Però in questo, ecco, ancora una volta, io non credo che leggendo un'enciclopedia tradizionale riusciremo ad arrivare a questi livelli di lettura, a questi percorsi che la rete ci permette. Quindi lunga vita alla rete, lunga vita a Wikipedia, e nonostante le accuse di passatismo, lunga vita agli anni 70, dentro i quali ci sono tante risposte dell'oggi, e forse nell'oggi ci sono tante risposte per il domani.